Prima di cominciare la terza lezione, facciamo un breve intervallo. Abbiamo invitato Bruno De Filippi, un amico che tornerà a trovarci in seguito. Ciao Bruno De Filippi. Ciao. L'argomento è sempre attinente agli strumenti che, come la chitarra, si pizzicano con le dita o con un plettro e fanno vibrare su una cassa armonica di diversa fattura delle corde che comunque sono tese su un ponticello per mezzo di chiavi che ne regolano l'intonazione. Dunque Bruno, sappiamo che tu sei uno dei più richiesti nelle sale di registrazione perché hai una vasta raccolta di strumenti a corda. Sì, ho collaborato alla realizzazione di molti dischi. Gli arrangiatori, quando cercano sonorità diverse, mi chiamano perché sanno che ho tanti strumenti strani ed esotici che ho raccolto in Europa, in Asia e nelle Americhe. Sì, ma il tuo primo amore musicale qual è stato? Naturalmente il jazz. Ho cominciato con Cherry qualche anno fa. Senti, oggi che strumenti hai portato? Dunque, ho portato il sitar dall'India. Ne approfitto per ricordare che è fatto con una mezza zucca alla quale è stato applicato un manico di bambù. Dalle isole Hawaii ho portato l'ukulele. E poi ho qui con me il 4 venezuelano. Per finire il bouzouki, che è uno strumento greco che assomiglia vagamente a un mandolinone, però con quattro corde doppie. C'è da dire che in origine ciascuno di questi strumenti è accordato in funzione delle musiche tipiche del paese di provenienza. Con l'aiuto di un luthaio io li ho modificati per poterne sfruttare il suono nella nostra musica. Allora cominciamo ad ascoltare Bruno De Filippi che suona il sitar. Che cosa suoni? Accompagnato da Franco Cherry suonerò un'aria tradizionale scozzese molto conosciuta, Loch Lomond. Ed ora Bruno De Filippi ci rappresenterà molto spiritosamente un havaiano che è stato importato di prepotenza negli Stati Uniti. Bene Bruno, qual era il titolo del pezzo? Era un havaiano a New York. Simpaticissimo. Ti ringraziamo dell'intervento e ci auguriamo di vederti qui presto. Lo spero. Questo è un La. Prima della lezione, che sarà tenuta nell'ordine da Franco Cerri e da Mario Gangi, vi preghiamo di accordare la chitarra. All'occorrenza troverete l'accordatura completa all'inizio della seconda lezione. Prendetevi il tempo necessario per l'accordatura e poi ascoltate cosa vi dice Franco Cerri. Eccovi dunque la terza lezione. Ricordate quando sostenevo l'importanza di non appoggiare né la mano né il mignolo sulla cassa della chitarra durante gli esercizi della mano destra con il plettro? Ebbene, la penso sempre così. A questo proposito, Franco Cerri suggerisce tre esercizi, il cui scopo maggiore è di rendere sempre più agile l'uso del plettro, in previsione di esercizi e di esecuzioni di brani con più note. Stiamo pensando principalmente alla mano destra. Per non addentrarci almeno per ora nei meandri del solfeggio, gli esempi saranno arricchiti con termini da pronunciare in sincrono con le note da eseguire. Vi concedo la libertà di cambiare corda e nota, ma dietro vostra precisa responsabilità. Qualsiasi cosa accada, sempre una pennata in giù, una in su, una in giù, una in su. Settimo esercizio. Ed ora attenzione al tempo, prego. 1, 2, 3, 4. Esercizio di pennata da riprendere più volte. Esercizio di pennata, eccetera, eccetera. Esercizio di pennata da riprendere. Ottavo esercizio. Questo esercizio è già stato proposto nella prima lezione. L'unica differenza è che il salto delle corde è diverso. Ricordate sempre una pennata in giù, una pennata in su. Seguite il ritmo, prego. Ripetete, prego. Nono esercizio, sempre a corde libere. Questo esercizio viene eseguito leggermente più lento perché ad ogni pennata si cambia corda. Attenzione al tempo, prego. Thank you. Vi saluto con due accordi e cedo il posto a Mario Gangi. Ecco dunque la terza lezione di Mario Gangi. Con gli esercizi numero 7, 8 e 9 abbiamo voluto sviluppare ancora di più la tecnica della mano destra a corde vuote, includendo nella dinamica il dito anulare che va ad aggiungersi all'indice e al medio. Così le tre dita, indice, medio e anulare, pizzicano tre corde diverse, passando dalle prime tre, gradatamente, fino alla sesta corda. A questo punto è lecito domandarsi cosa fa il mignolo. Ebbene, si affianca ai movimenti dell'anulare, ma senza toccare le corde. Ed ecco l'esercizio numero 7. Tre sono le dita che pizzicano le corde. L'indice pizzica la terza, il medio la seconda e l'anulare la prima. In successione è così. Indice, medio, anulare. Indice, medio, anulare. Poi l'indice pizzica la quarta corda, il medio pizzica la terza e l'anulare la seconda. In successione è così. Quarta, terza, seconda. Indice, medio, anulare. Proseguite, per favore, fino alla sesta corda, spostando gradatamente le dita. Ora risalite. Quinta, quarta, terza. Indice, medio, anulare. Quarta, terza, seconda. Indice, medio, anulare. Arrivate fino alla prima. L'ottavo esercizio consiste nel rovesciare la formula dell'esercizio numero 7. Infatti, qui l'anulare pizzica la prima corda, il medio la seconda e l'indice la terza. Seguiteci, prego. Prima, seconda, terza, anulare, medio, indice. Scendiamo per gradi verso la sesta, così, anulare sulla seconda, medio sulla terza, indice sulla quarta. Prego eseguire, seconda, terza, quarta, anulare, medio, indice. Proseguite con calma fino alla sesta. Adesso si risale, così, anulare sulla terza, medio sulla quarta, indice sulla quinta. Eseguire, terza, quarta, quinta, anulare, medio, indice, e così via fino alla prima. Ripetete a lungo questo esercizio. Nono esercizio. Vi operano sempre le tre dita. Indice, medio, anulare. In questo modo. L'indice pizzica la terza corda. L'anulare la prima. E il medio la seconda. Ed ora seguiteci, prego. Terza, prima, seconda. Indice, anulare, medio. Come negli altri esercizi, gradatamente si scende verso la sesta corda e perciò avremo questa sequenza. L'indice pizzica la quarta corda, l'anulare la seconda e il medio la terza. Ora seguiteci, prego. Quarta, seconda, terza. indice, anulare, medio, e proseguite fino alla sesta corda. Ora si risale. Indice sulla quinta corda, anulare sulla terza, medio sulla quarta. Così. Quinta, terza, quarta. Indice, anulare, medio. Avanti fino alla prima corda. Ripetete, prego. Termina così la terza lezione di Mario Gangi. Franco Cerri, Mario Gangi e Franco Nebbia vi danno appuntamento alla prossima cassetta.